Thank you. Straordinario uomo gorilla. L'uomo gorilla vuole salutare questo gentile pubblico. Prego! Ed ora permettete che vi presenti lo straordinario uomo gorilla. Uomo gorilla vuole salutare questo gentile pubblico. Prego!